Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. C'è un arresto per stalking non convalidato, aggressioni fisiche e psicologiche, numerose denunce dopo una complicata separazione sullo sfondo della tragedia familiare avvenuta in un box di questo condominio di Via della Guardia a Bologna. L'uomo che in Italia fa il fioraio viene arrestato con l'accusa di sequestro di persona, sottrazione di minori, maltrattamenti in famiglia, percosse e violenza sessuale. Ha visto il padre picchiare per l'ennesima volta sua madre e allora, senza perdersi d'animo, ha chiamato il 112 facendo arrestare il genitore. È successo ieri pomeriggio a Firenze, in un appartamento del quartiere di Novoli. La ragazzina, una tredicenne peruviana, quando ha visto che il papà alzava di nuovo le mani sulla mamma, ha preso il telefono, si è chiusa in bagno e ha chiamato i carabinieri. I militari hanno arrestato il padre, un 48enne, per maltrattamenti in famiglia e lesioni. La madre, il problema della violenza in famiglia, quando esplode in maniera totale, assoluta, quando si allineano i morti sul salotto di casa e quando diventa un fatto di cronaca, quando ne parlano i giornali, quando corrono le troupe televisive, quando gli alberghi, come nel caso ultimo di San Nicandro, di una famiglia interamente sterminata dal capofamiglia, ancora si deve capire perché, per come, per quando. Beh, un albergo ha mandato un'email a tutti i giornali: se volete ho camere con vista sul luogo del delitto, ho ampio parcheggio per poter mettere le troupe televisive, venite, vi faccio degli sconti speciali. Beh, quando diventa materia da giornale e da televisione, il problema sembra già elaborato, sembra già far parte della fiction, sembra qualcosa che accade agli altri e non accade a noi. Però cosa c'è fra il ritratto felice da Mulino Bianco degli sposi sul sagrato della chiesa, delle foto su Facebook mano nella mano, del famigliolo felice con i bambini con i compleanni, di questo eterno idillio che sembra non essere toccato da nulla, e i morti allineati dentro il sacco di plastica sul salotto di casa? Beh, ne vogliamo parlare questa mattina. Parliamo di qualcosa di cui si parla molto poco volentieri, qualcosa che esiste diffuso a tutte le latitudini, in tutte le classi sociali, in tutti i livelli di cultura possibili. Non è vero che soltanto i cafoni e gli ignoranti picchino le mogli, non è vero che soltanto le mamme analfabete o operaie bastonino i figli, lo fanno laureate, lo fanno uomini di pensiero, lo fanno illustri giornalisti, lo fanno pissimi uomini di chiesa nel senso che vanno in chiesa, non che sono prelati o altro. Beh, questa mattina cercheremo di confrontarci con persone che il problema lo conoscono sull'aspetto limaccioso, oscuro, invisibile la violenza in famiglia, e vorrei questa mattina che qualcuno avesse il coraggio, chiamando all'800240024, di raccontare l'irraccontabile. Cosa accade all'interno della sacra, benedetta e ridente famiglia italiana? Gianettore Gassani, buongiorno. Buongiorno. Gianettore Gassani è un nostro amico, ospite ricorrente, perché il problema della famiglia è centrale oggi in tutti gli sviluppi della società, in tutti gli anacronismi che stiamo vivendo rispetto all'organizzazione sociale. È presidente, ricordo, Gianettore Gassani, dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Nel tuo libro, ormai che è diventata la Bibbia di tutti quelli che hanno problemi matrimoniali, Perplessi Sposi, di Tore Liberti, tu dedichi un capitolo a Quando l'amore diventa odio. La prima causa di rottura dei matrimoni è la violenza. Quando esplode la violenza? In che maniera e in che forma esplode la violenza? Sì, la famiglia non è certamente più un'isola felice, ce ne stiamo rendendo conto tutti i giorni. La violenza esplode nel momento in cui ci sono due componenti: la violenza dell'uomo e la sopportazione della donna. Purtroppo abbiamo una statistica preoccupante: il 93% della violenza in famiglia non viene denunciato. Ciò significa che esiste una sorta di sopportazione da parte del mondo femminile che deriva da due questioni. La prima è la sfiducia nei confronti del sistema giudiziario, perché tutte le donne hanno paura che il processo duri troppo, costi troppo e soprattutto finisca in prescrizione. La seconda è il terrore di essere poi vessate ancora di più dal marito indagato. In effetti dobbiamo stabilire che la famiglia italiana uccide più della mafia. Cioè ci sono più morti ammazzati nel Tinello o in Salone rispetto a quelli nei quartieri spagnoli di Napoli o delle città più difficili. Saviano non scrive libri sull'emergenza famiglia, naturalmente è un problema, non voglio sottostimare o banalizzare il problema della mafia, ma è giusto che venga fuori anche questo dato. Assolutamente, è un dato preoccupante. Dal 2006 c'è stato il sorpasso, cioè fino al 2006 la malavita uccideva di più. Oggi la famiglia è spesso il teatro dei fatti più orrendi. Cioè il buon padre di famiglia uccide più di un serial killer della mafia, statisticamente. Le statistiche dicono questo, e soprattutto c'è un discorso che da quando è stata introdotta la legge sullo stalking addirittura le vittime sono aumentate, perché molte volte la denuncia si tramuta in una condanna a morte, perché l'indagato spesso, che è uno psicolabile, non si ferma davanti a un avviso di garanzia, diventa ancora più violento. Tanto è vero che il 40% delle donne uccise negli ultimi 2 anni, vittime di stalker, avevano già sporto denuncia, avevano già chiesto aiuto, si erano già rivolte agli avvocati, erano già state sentite dalla polizia e dai carabinieri, erano state addirittura sentite dai magistrati. Tornate a casa sono state uccise. Quindi non c'è alcuna forma di prevenzione e di controllo. Vorrei questo, Gianetto, che diventi una sorta di ulteriore freno a denunciare uno stalker. Lo stalker va comunque denunciato. Assolutamente, va denunciato, ma però occorre creare una fitta rete di misure di prevenzione, perché io come avvocato sono molto spaventato. Da un po' di tempo non hai paura anche come avvocato, che tu poi tratti dal vivo queste vicende? Sì, tutti i giorni. Io a volte ho delle donne che vengono nel mio studio con gli occhi neri, tumefatti, con le labbra spaccate, e io dico loro che cosa è successo. Loro a volte si vergognano addirittura di raccontare la loro vita, e quando io propongo delle azioni giudiziarie, spesso e volentieri poi dicono: no, avvocato, ci devo pensare. Oppure interviene la famiglia della donna che dice: ma vuoi denunciare tuo marito? Cioè, ci devi pensare bene, vuoi fare uno scandalo? Cioè esiste un'omertà, una cultura italiana, che è quella secondo la quale all'interno delle mura domestiche in effetti esiste una legge a parte, come se il codice penale fosse fuori dalla porta d'ingresso. Questo anche verso i figli è roba mia, io feci in passato inchieste su questo, molte volte non c'era la percezione che quando le cucine si trasformavano in camere da tortura, quando ogni mestolo, ogni forchettone diventava uno strumento raffinatissimo di tortura quotidiana verso i bambini, madri e padri colti in questa attività dicono: beh, in fondo faccio qualcosa ai miei figli per educarli, per farli star buoni. Infatti c'è una legge che condanna l'abuso dei mezzi di correzione. Tutto sommato la legge ha sempre voluto creare un freno su questo concetto di proprietà del genitore verso il figlio, ma dobbiamo pensare che la violenza in famiglia è anche la strumentalizzazione dei figli contro l'altro genitore, anche quello è una gravissima forma di violenza. Ma noi pensiamo sempre alla violenza come la coltellata, come il gesto finale. Per me violenza anche la contesa allucinante sui figli in tribunale, la strumentalizzazione di un figlio contro l'altro genitore. Assolutamente, io penso che da questo punto di vista, io come associazione degli avvocati matrimonialisti italiani sto lottando per creare un nuovo codice deontologico, perché molte volte anche gli stessi avvocati dovrebbero essere molto più prudenti, che diventa uno strumento processuale. La maggior parte degli avvocati sicuramente sanno fare il loro lavoro, ma ci sono delle pecore nere in tutte le professioni, e devo dire che a volte leggiamo degli atti processuali miranti semplicemente a distruggere l'altro per togliere i figli. Anche questa è violenza. Attenzione, non c'è quindi solo la violenza nei confronti del coniuge, c'è anche la violenza nei confronti dei figli. Ma ci sono stratagemmi tipo lasciare il rubinetto aperto a casa quando il genitore ha in tutela i figli, così la casa si allaga, puoi mandargli il controllo e con la casa allagata si dimostra che è un cattivo genitore, o cose del genere, o costringere i bambini a dire che il papà o la mamma magari ha fatto cose non giuste su di loro. Ma per quanto riguarda la violenza contro i figli, possiamo dire che padri e madri più o meno si equivalgono, purtroppo. Cioè l'uomo è violento nei confronti della donna, la donna spesso è violenta quanto l'uomo nei confronti dei figli. Tanto è vero che da una ricerca effettuata dal professore Massonardi dell'Università La Sapienza si evince per esempio che negli ultimi 40 anni circa 500 bambini sono stati assassinati, il 90% di questi bambini sono stati assassinati alle mamme. Ecco, almeno in questo campo diamo un'idea uguale, perché oggi con l'idea del femminicidio, che è una cosa terribile, donne uccise, e c'è l'infanticidio, si sta perdendo di vista il fatto che non esiste un genere predominante nella violenza. In realtà la violenza è abbastanza diffusa, sì, è atroce e terribile vedere l'elenco di donne uccise, però non si concentri come un delitto a parte quello di uccidere donne, perché in effetti esiste una violenza estrema anche verso i bambini. Noi infatti organizziamo un congresso nazionale a Roma il 14 adesso, mi scanneranno giugno. Per quello che ho detto, ma oggi vorrei parlare della violenza di cui si parla meno, che è quella generalizzata, quella che è impossibile coglierla politicamente o dargli un senso ma c'è una violenza psicologica che ci scivola dalle mani, che non è refertabile. Per esempio, quando la donna mi dice mio marito mi umilia, o il bambino dice i miei genitori mi trattano male, io non riesco a fare le indagini, perché è una violenza sottile, non certificabile, ma atroce, che mi scivola dalle mani. Purtroppo non esiste una legge sul mobbing familiare, ma hanno fatto solo quella sullo stalking. Credo che anche le violenze psicologiche andrebbero sanzionate molto molto ma esiste una fattispecie all'estero trattata come mobbing familiare, cioè... ma diciamo di sì, diciamo nei paesi anglosassoni il mobbing familiare è una vera e propria legge, nel senso che qualsiasi forma di svalutazione, di delegittimazione nei confronti dell'altro viene sanzionata. Diciamo che in Italia di maltrattamento in famiglia tutto sommato ingloba in sé anche questo tipo di condotta illecita, ma credo che dovremmo studiare molto attentamente anche su quelle che sono le forme di violenza economica, per esempio il marito che tiene in pugno la moglie sul piano economico, le violenze sessuali. Ecco, per esempio, ricordo che all'inizio della mia carriera, se si faceva una denuncia nei confronti di un marito perché pretendeva dalla moglie particolari prestazioni sessuali, magari arrivava il poliziotto o il carabiniere e diceva, parlo di 30 anni fa, signori, la faccia ma sta è cosa, il marito, ma che vogliamo fare, ma che vogliamo denunciare, come se tutto fosse normale, come se, ripeto, la famiglia fosse un qualcosa a parte rispetto alla società. Fermiamoci un istante, andiamo avanti. 800 24 00 24, c'è già qualche telefonata. Volevo intanto supportare e integrare quello che abbiamo detto con Gianettore Gassani con qualche dato. Dottoressa Marina Bacciconi, buongiorno. Buongiorno. Responsabile dell'Osservatorio Nazionale Violenze Domestiche. A me... Violenza domestica, al singolare. Violenza domestica, scusi, ma avevano scritto. Prego, semplicemente... no, per carità. Qual è la differenza? La differenza è che secondo noi, che già esistiamo dal 2006, e formalmente io sono un medico legale, sono dell'Università di Verona, per cui è formale questa istituzione, abbiamo nel tempo messo a punto un metodo rilevato per vie istituzionali formali, in modo da poter raccogliere i dati che le varie articolazioni dello Stato ci inviano, ovviamente criptati, questo è un altro discorso. E quindi Veneto, Lombardia e via via stiamo cominciando ad ampliarci, in modo tale, avendo messo a punto il metodo, in modo tale da vedere i vari aspetti. Io mi permetto di dare un dato che è un dato Ministero dell'Interno, da cui siamo patrocinati da sempre, da alcuni anni, da sempre, quando esistiamo, e cioè che dal 1995 al 2009 i dati ufficiali tra criminalità organizzata, reati commessi dalla criminalità organizzata e reati commessi in famiglia, passionali cosiddetti in primo tempo, vedono una intersezione attorno al 2004 in salita dei reati relativi alla famiglia e in discesa dei reati relativi alla criminalità. È quello che stavamo dicendo, in realtà è sono dati formali, però ci sono dati che il Ministero dell'Interno dà, allora è un po' diverso. Voglio dire, questo non si può discutere, o si discute nel Ministero dell'Interno. Quello che io volevo dire è che noi, in sostanza, attraverso un metodo a tappeto, cioè carabinieri, polizia, magistrati, polizia locale, aziende sanitarie, consultori familiari, il DEP, il web e così via, tutte le istituzioni ci inviano ogni volta che intercettano, quindi non solo quando c'è una denuncia, una querela o cosa, ogni volta che intercettano un caso di violenza in famiglia ci inviano una scheda che ha una parte comune e una parte dedicata. Senta, ma dalla sua esperienza, dottoressa, ecco, questa probabilmente è una punta di iceberg. Quanto rimane sommerso perché impossibile ad essere intercettato? Voi avete già un dato abbastanza complesso, oltre alle denunce avete anche le segnalazioni che vi fanno le forze di polizia. Certo. Ma c'è ancora un terzo livello che nemmeno arriva all'orecchio del carabiniero, sì, del poliziotto? Sicuramente, cioè voglio dire, se noi prendiamo come dato di riferimento che emerge tra il 10 e il 20% di quanto avviene, allora io le posso dare un dato, a furia di battere per anni attraverso sempre le istituzioni, non le associazioni di volontariato, cose varie, i referti medici sono passati dall'11% al 57% nel Veneto. solo, mi sono posto un problema. Ieri ero a Bergamo ad un convegno organizzato da CSM. E poi? Cioè, voglio dire, io sono perché denuncino, visto, ma anche gli uomini, perché uno su tre delle vittime è maschio, anche adulto, menato dalla moglie. Cioè, cominciamo a vedere questo. No, ma io questa mattina sono proprio per evitare le strumentalizzazioni. Esatto. Per questo io aggrotto le ciglia quando sento parlare di femminicidio, con l'estrema... No, io proprio non le aggrotto, per me non esiste. Per una ragione, perché il codice penale prevede l'omicidio. Cioè, allora, la violenza di genere è del genere umano, non del genere femminile. Su questo siamo d'accordo, anche bisogna stare un po' attenti, perché si banalizza nel tentativo sfonda porte aperte questa mattina. Benissimo, ma guardi che è l'unica porta aperta che ha sfondato, perché sul femminicidio ormai, a parte Clio Napolitano, non c'è nessuno che si tira indietro, anzi... serve per aprire la bocca, per dire tante cose. Sia chiaro, questo non significa che siamo indifferenti di fronte agli omicidi donne. È un dato sbagliato giornalisticamente, statisticamente, dire in Italia improvvisamente si ammazzano più donne. Neanche per idea. Ecco, lo fermiamo solo un secondo. Siamo Maurizio, ascoltatore Maurizio. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? La sto ascoltando. Io vorrei intervenire dicendo che è vero che ci sono le violenze sulle donne, è vero che in Italia e nel mondo in genere... Sì, ma abbiamo già detto questo, siamo tutti d'accordo. Perfetto. È una cosa abominevole che non deve esistere. Allora, detto io sono separato da una mia compagna, ho due figli, nonostante che abbia la possibilità di tenere i bimbi perché avevo, anche per il lavoro, eccetera, ho questa possibilità di tenere i bimbi. Il presidente del tribunale dei minorenni ha deciso che comunque, essendo maschio, non potevo tenere i bimbi, e in più io ho prospettato che a seguito di questa separazione avevo contratto dei mutui, dei prestiti, proprio per un progetto. Ma questa è un'altra grossa incongruenza. Stiamo discutendo, come un passo avanti di civiltà, che delle coppie omosessuali possano gestire dei ragazzi. Non capisco che un genitore maschio debba essere impedito a gestire, appunto, un figlio maschio. No, c'è questa incongruenza proprio a livello intellettivo da parte di Vabbè, chi andiamo, questo è un dato di cui abbiamo già parlato. Vada alla sua storia personale. Ecco, la mia storia è che io comunque sono stato sbattuto fuori casa, vivo con 400 euro al mese, mi arrabbatto per poter riuscire ad arrivare a fine mese. Ma riguardo alla violenza, perché il tema oggi è la violenza. In base alla violenza, anche questo è un tipo di violenza, perché la madre dei miei bimbi non mi permette neanche di avere una vita dignitosa, perché non ho la possibilità. E tutto questo, nonostante che sia stato fatto presente alla persona che poi ha dovuto prendere questa decisione, non ha visto alcunché e mi ha messo proprio sul lastrico, buttandomi in mezzo alla strada e con i bambini, e a questo punto ha usato violenza verso di me e naturalmente violenza verso i miei figli. Abbiamo capito. Lisa, buongiorno. Lisa. Buongiorno. L'ascolto. Sì, sono Milva di Mirandola, provincia di Modena. Sì. Quindi sono sulla terra del cratere. Io ho subito diverse vessazioni, violenze fisiche, psicologiche da parte del mio ex marito, e nonostante abbia tentato di contattare, e lo abbia fatto, sia i carabinieri della postazione di Mirandola sia la pubblica sicurezza in conseguenza alla mia prima denuncia, sono stata pregata di desistere insistentemente dalle stesse forze dell'ordine. Ma cosa denunciava lei, signor? Io denunciavo la violenza psicologica e la violenza fisica e l'abuso da parte del mio ex marito, dal quale poi mi sono riuscita a separare. Gianetto Regassani, in questo caso la fa una persona? Va a fare una denuncia formale, scritta? Ma a quel punto va presentata una denuncia, punto e basta. Cioè, poi le forze dell'ordine non possono non accettare. Però capisco perfettamente quello che sta dicendo la signora. Credo che la cosa migliore sarebbe sempre farsi accompagnare da una persona, o comunque da un avvocato, Perché non, la denuncia non deve essere filtrata dalle forze dell'ordine, si presenta e basta, le forze dell'ordine devono semplicemente ratificarla, poi sarà il magistrato a stabilire le responsabilità. Se vuoi piuttosto fare una telefonata, vada, mio marito mi maltratta, vada direttamente alla stazione e faccia denuncia, a quel punto sarà difficile che le dicano non si può, di telefonate ricevono tante, anche loro a distanza è difficile che riescano. Ma il problema è un altro, che c'è anche un po' una deriva di false denunce. Sì, di mitomani, che chiamano per ogni cosa. Secondo la Procura Repubblica di Roma, insomma, il 75% poi delle denunce, quelle che si fanno finiscono con una soluzione, quindi poi magari quelle che subiscono i reati non denunciano. Poi ci sono le denunce strumentali, quelle per vincere la causa di separazione e divorzio, questa è un'altra vergogna. Melog, la realtà condivisa. Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali. Queste le accuse mosse dai carabinieri a un cinquantenne della Valdenza, nel Reggiano, che ha massacrato di botte la moglie dopo essere stato sorpreso con l'amante. Quando la donna ha scoperto la relazione del marito e ha chiesto spiegazioni, è stata presa a calci e pugni, riportando fratture e contusioni multiple. Botte, ingiurie, minacce e anche tentata sottrazione di minore. Una violenza inaudita che ha portato una giovane donna in ospedale, ricoverata in neurochirurgia, con la fuoriuscita del bulbo oculare destro dalla cavità naturale, causando anche fratture ai denti. 40 giorni di prognosi per la vittima. Tre le persone arrestate dagli agenti della squadra mobile di Foggia. 800240024, oggi parliamo di violenza in famiglia. Violenza in famiglia a 360 gradi, da cui nessuno esce, nessuno si salva, nessuno è innocente soprattutto. Velocemente due ascoltatori, Giorgio. Sì, pronto, buongiorno. Volevo fare una piccola precisazione a proposito di femminicidi. A me sembra che ci sia una legge ben precisa, credo che sia la 154, che obbliga il poliziotto di turno, quando arriva una donna che viene malmenata, si vede dai segni sulla faccia, oppure ha l'obbligo di indirizzare la donna verso i centri antiviolenza, i quali a loro volta prendono la denuncia e portano le donne che sono subiscono questa violenza nei rifugi praticamente. Giorgio, l'ascoltatrice diceva di aver fatto delle telefonate, è uno stadio ancora precedente, è logico che non voglio sollevare di responsabilità nessuno, ma io immagino una stazione carabiniera, un posto di polizia, che erano tante telefonate, uno dice mio marito mi fa violenza psicologica, dica signora venga qui magari, questo potrebbe, ci sta, però quello che dice la puntualizzazione è corretta. Massimo, buongiorno. Sono Massimo da Pescara. Sì. Il punto che avrei voluto sottolineare è quello che, affrontando io una mia separazione con una strumentalizzazione, un'alienazione genitoriale, parentale da parte della mia ex moglie, ho notato che ci sono tantissime altre persone che hanno, uomini, che stanno subendo violenze psicologiche. Io non ho mai subito una violenza fisica dalla mia ex moglie, ma violenze psicologiche non riuscirei ad elencarle neanche se lei mi desse 4 ore della sua trasmissione. No, lo so bene, perché ne parliamo spesso. Sì, sì. E il mio piccolo inferno l'ho visto attraversare molti uomini che hanno in comune il fatto che sono stati ricattati con i bambini. Il punto, alla fin fine non c'è niente di nuovo, lo fanno molte donne che usano i bambini contro l'ex compagno. Anche in questo caso non voglio banalizzare una cosa che abbiamo spesso detto con l'avvocato Gassani, però oggi voglio più centrare la trasmissione sulla violenza. La violenza è anche psicologica. E di questa violenza psicologica non sarebbe possibile tirare fuori delle commissioni che possano accertare queste cose? Però guardi, Massimo, sì, ho capito Massimo, conosco il problema, sa quante volte ne abbiamo parlato? Lei parla già di una famiglia che non esiste più, esplosa, quando siete già andati dal marito. Io sto parlando di una fase ancora precedente. Quello che avviene in famiglia, prima ancora che tutti gli indicatori ufficiali, sociali, delle forze dell'ordine, degli enti di sorveglianza se ne accorgono. È questa di cui voglio parlare questa mattina. Dottor Fabio Fagiolari, buongiorno. Buongiorno. Medico legale, docente di medicina legale e medicina del lavoro presso la Sapienza, corso di laurea infermieristica, Edoardo e Virginia Agnelli. Visto che voglio centrare il problema oggi, perché sennò diventa vastissimo, esiste anche una violenza psicologica, un'attività vessatoria, un infame ricatto spalleggiato da parte delle mogli, dei mariti, delle suocere, delle nuore. Lei che è medico legale, però sul piano concreto reale dei segni della violenza, può darci qualche dato concreto reale, statistico ed effettivo di quello che accade dentro la famiglia? Guardi, principalmente noi dobbiamo dire una cosa, il medico legale interviene in una situazione facendo e analizzando quelle che sono delle fotografie istantanee di ciò che la violenza ha prodotto. Quindi il primo elemento importante che bisogna dire e considerare, e l'avvocato Cassani in precedenza lo ha sottolineato, è che la violenza sia o gli effetti della violenza siano certificati, cioè bisogna avere il coraggio, la possibilità, l'eventualità che quanto avviene in famiglia possa essere riscontrato da un pronto soccorso con un referto. Perché... Ecco, questo lo trovo a capire. Se dovessimo oggi suggerire una procedura d'urgenza, la persona nel seno della famiglia prende le botte, quindi assegna le botte. Cosa deve fare immediatamente? Immediatamente si deve recare in un pronto soccorso per essere certificabile quello che è sugli effetti di ciò che è successo, perché vede, nell'organismo umano, in un organismo vitale, i processi biologici sono un divenire nel tempo, hanno delle modificazioni che vanno ad evidenziarsi a secondo delle problematiche che si sono prodotte, per cui se noi interveniamo con una fotografia istantanea 2, 4, 10, 15 giorni dopo, noi abbiamo l'analisi di elementi che si sono modificati nel tempo e che dobbiamo ricostruire a posteriori. Certo, l'occhio nero sparisce, il livido scompare, il graffio si rimarca. Cioè. Noi, vede, ciò che succede durante una violenza, ciò che la produce, non è altro che una fotografia in negativo, perché gli oggetti usati per produrre violenza dalle mani ad altri oggetti lasciano dei segni ben precisi, è come un positivo ed un negativo, quindi più vicino noi andiamo a fare questa fotografia, più riusciamo a capire che cosa è successo. E questo accade, secondo lei, dottore, dalla sua esperienza? Prego? Accade, cioè normalmente una famiglia in cui ancora il problema è tenuto sotto la cenere, nascosto, non si dice nemmeno agli amici più cari, nemmeno ai parenti, avviene una delle tante risse familiari, uno dei due c'ha un segno addosso, ma la prima cosa che fa va in bagno, si disinfetta e sta zitto e spera che il giorno dopo passi, non è che esce di casa e va al pronto soccorso. Il pronto soccorso è l'esplosione della famiglia, perché per certi versi si tende a sopportare la violenza. È una dichiarazione di guerra ufficiale, pubblica. Si arriva a delle manifestazioni estreme che vediamo tutti sui giornali a che cosa possono portare. Perché, come è stato detto anche da chi è intervenuto, le violenze purtroppo non sono solamente fisiche, sono anche psicologiche, psichiche, e anche queste debbono trovare riscontro in strutture che possano permettere una stadiazione nel tempo di ciò che avviene all'interno della famiglia. Capisco che è pericoloso e infatti la difficoltà a denunciare sta proprio in questo, ma il portare alla luce una temporalità di eventi violenti permette anche un intervento migliore e maggiore nei confronti della persona che è violenta. Dottor Fagiolari, io le dico come la vedo io, poi lei mi dirà se il suo parere coincide o avverso. Si parte ormai da un condizionamento che abbiamo genetico, fisiologico, ambientale, per cui la famiglia, se è qualcosa di indissolubile, guai a pensare che ciò non accada. Ma una famiglia in cui ci si mena, in cui si fanno violenze non date da un momento passeggero, da un momento che può accadere comunque, ma sistematiche e continuative, la famiglia già esplosa, non esiste più. Non si può essere fermati dal fatto che si pensa, ma metto in crisi la famiglia andando a denunciare. No, non è mettere in crisi la famiglia, mettere in crisi la propria individualità, perché si la ha famiglia paura... è già finita, non esiste già più in quel momento. Certo, si ha paura delle ritorsioni su questo, però ecco, il problema è sempre da parte nostra come medici legali, è quello di avere la possibilità di poter ricostruire una dinamicità di eventi che ci permettano di analizzare nel miglior modo possibile quelli che sono gli eventi violenti. Dottore, solo per rassicurare un ascoltatore, esiste uno strumento tecnico, clinico per verificare l'autolesionismo? Qualcuno dice molte volte, qualcuno va al pronto soccorso compiendo atti di autolesionismo e poi incolpare l'altro coniuge. Guardi, ogni traumatica che noi registriamo sul corpo di una persona deve corrispondere in termini di anamnesi, in termini di evidenze cliniche, in termini di procedure a ciò che ci viene raccontato. È chiaro che dei fenomeni di autolesionismo hanno delle caratteristiche ben precise, per cui se ci viene raccontato un fatto che non corrisponde a quello che è la dinamica di un evento lesivo, le faccio un esempio, se noi abbiamo una ferita di arma da taglio e per esempio in fenomeni di autolesionismo si possono avere delle ferite seriate per esempio sugli arti superiori, sull'avambraccio, ecco, questo deve avere una corrispondenza su ciò che ci viene descritto e riferito dal soggetto che porta queste lesioni. Se non c'è questa congruenza tra il raccordo anamnestico e l'evidenza clinica, noi dobbiamo dubitare di ciò che ci è stato detto in maniera tale da poter... Diciamo, il medico legale si accorge se uno si taglia sull'avambraccio semplicemente per incolpare il coniuge o se in realtà è frutto di una violenza. Melog, la realtà condivisa. Violenze fisiche, sessuali, verbali e psicologiche, la privazione dell'indipendenza economica o la denigrazione dell'identità, tutto rientra nell'atroce casistica delle violenze domestiche, quel tipo di soprusi che avvengono all'interno delle nostre case, che vengono inflitte da coloro che più dovrebbero proteggere il nucleo familiare, uomini che odiano le donne. Donne che odiano gli uomini, figli che non tollerano i genitori, genitori che si macchiano del più terribile dei delitti. Siamo di fronte ad un fenomeno sottovalutato, ma quanto mai allarmante. 800 24 0024, parliamo di violenza in famiglia, parliamo di violenza al di là del genere, di la compia o che la subisca. Oggi chiamano soltanto uomini, non hanno ancora chiamato una donna. È un dato, lo registro, non so che dire. Oggi chiamano soltanto uomini, strano, un pubblico femminile attivissimo, ricettivo, intelligente, pronto a reagire su ogni stimolazione. Oggi parliamo di violenza in famiglia, le donne non chiamano. Francesco. Sì, buongiorno. È con un senso di liberazione che ho ascoltato questa trasmissione, anche una serie di dati che erano diciamo conoscevo anch'io, però racconto un'esperienza personale che come dire, quando mi trovo a farlo, l'ho fatto con pochissime persone, ho grande imbarazzo nel raccontarla. Cioè, lo racconti qua, che non si imbarazza nessuno. Nel senso che io subisco da diciamo un certo numero di anni, dall'inizio più o meno del rapporto con mia moglie, delle violenze proprio di tipo fisico. Ah, finalmente, un uomo menato dalla donna, se no sembra tutto, sì. Parliamo solo di violenza psicologica. Cioè sua moglie la mena, ma è più grande, sì, di lei sua moglie fisicamente? No, diciamo che abbiamo più o meno la stessa altezza. Cioè più esperta in arti marziali, come mai la mena? Perché un uomo di solito riesce a evitare di farsi picchiare. Ecco, sì, io alle volte devo dire con grande sincerità, rispondo anche un po' per difesa, un po' per... Ma come la colpisce? Ovviamente... Come la colpisce? Con pugni, schiaffi, oggetti contundenti? Pugni, schiaffi, calci, spinte, minaccia di minare, di lanciare oggetti. Queste, devo Ma dire... le fa male oppure è un amoroso combattimento che poi finisce che fate l'amore? Beh, no, vi menate proprio. Male. Mi fa male soprattutto anche a livello interiore, perché sono cose che lasciano davvero il segno. Ma questo, parliamo a livello esteriore, a livello interiore ne abbiamo parlato da 40 minuti, le lascia segni addosso? Sì, perché sono situazioni, devo dirle anche per onestà di ricostruzione, che non avvengono ovviamente tutti i giorni, sono diciamo sporadici. Ma lei di cosa si lamenta, scusi? Perché non la denuncia sua moglie se la mena? Ecco, perché io ho delle difficoltà in questo senso, cioè della serie, comunque ho tentato di salvaguardare, sto tentando di salvaguardare. Vi amate, il vostro matrimonio è sano, e nonostante questo vostro passatempo? Sì, oppure... sì. E allora il vostro gioco, di che si lamenta? Un'altra cosa, perché se lei avesse veramente una violenza che le fa male, l'avrebbe denunciata sua moglie. Ma purtroppo è questo il limite, il sottile confine è proprio questo, perché è una violenza che mi fa male. E allora la denunci, la lasci, perché deve stare con una che la picchia? Perché ci sono poi i bambini, e come diceva... Ma i bambini, che se ne frega i bambini? Scusi, i bambini possono vivere una famiglia in cui i genitori si menano, non hanno possibilità di dialogare. Vabbè, allora non so che dirle, si tenga le botte, auguri. Marina Bacciconi, scusi, l'avevo interrotto, avvocato. No, ecco. Per carità. Per carità cosa? No, perché, cioè, voglio dire... Ricordo, responsabile osservatorio nazionale violenza domestica. Sì. E sono anche un medico legale, tra le altre cose. No, scusi, allora, cosa avrebbe detto lei a questo signore? Sì, no, io a questo signore avrei detto una cosa molto semplice, che non mi ha raccontato nulla di nuovo, che è successo che andando dalle forze di polizia queste si mettono a ridere e gli dicono: scusa, ma perché non la meni tu di più? Cioè, voglio dire, qui bisogna intanto cominciare... Beh, però aspetti, se uno va e fa una denuncia con un avvocato dettagliata, circostanziata... Ma no, l'avvocato, lasci stare, non è un problema di avvocati. Per quello. Poi diciamo discorsi economici. Allora, io posso adire al gratuito patrocinio fino ad un tot di soldi, cosa che fa ridere, oppure mi trovo un buon avvocato che devo pagare. Anche questo è un problema economico. Ma non c'è un problema a monte, però mi scusi, dottoressa, alla fine, perché sembra sempre che poi queste persone, il grande problema sia uscire da una situazione in cui sono messi. La gente dovrebbe essere lievemente più accorta quando si sposa, o dovrebbe essere in generale il matrimonio non essere più un'istituzione così rigida e ferrea per cui è così difficile poi scapparne quando c'è una storia. Io prima volevo chiederle cosa intende per famiglia. Ah, non lo so, io mi sto interrogando, no, pubblicamente da qualche anno. Se lei prende, cosa che io ho comprato a questo punto, un banale dizionario di etnografia e etnologia, ci sono almeno 6-7 definizioni di famiglia. E in conclusione, famiglia è quella che la legge riconosce come tale. Fermiamoci un attimo, voglio tornare sul problema. Gianetto Regassani, concludiamo con te e tiriamo i punti. Voi innanzitutto state per fare un congresso nazionale, voi avvocati matrimonialisti, su questo caso. Sì, finalmente facciamo un congresso quindi nazionale. Quindi è un reale problema. E parliamo di famiglie e violenze, quindi famiglia di fatto, famiglia legittima, strumenti di prevenzione e tutela. Il 14 e 15 giugno 2013 alla residenza di Ripetta sono ancora aperte le iscrizioni, aperte agli avvocati, ai magistrati, ai medici legali, ai psichiatri, perché noi avvocati stiamo lavorando su una formazione multidisciplinare. Non è materia banale, vedi quanto è difficile poi definirla, è sfuggente, perché ci si pone il problema cosa sia la famiglia. E gli uomini vengono menati, ma dicono ma non è vero andiamo. Anche questo, è vero anche che molti uomini sono vessati, in Svizzera addirittura sono state fatte alcuni centri per uomini picchiati. Nel cantone tedesco, in Francia l'anno scorso non mi fanno molta pena, ma gli uomini si fanno picchiare la moglie, onestamente, infatti, però il mio punto di vista, ecco, sempre sui dati sullo stalking ci sarebbe da dire che molti uomini non denunciano perché hanno paura di essere presi in giro come diceva prima. Fermiamoci un attimo, il problema è enorme, immenso, lo riprenderemo senz'altro alla prossima settimana.